c'è qualcuno? Ciao Robè. Ciao Marco, tutto a posto? Figa, tutto spallato, dai. Anche io sono un po' scombussolato oggi, non ho capito perché. Vabbè, giornate strane, io più ho fatto la notte in bianco. Io praticamente ho preso sonno, credo, alle 8:30 di mattina, tutta la notte in bianco. Poi vabbè, doccia, cosa, balle varie, non ne ho avuto voglia di uscire. Poi ci sarà stata troppa gente a Platamona. Domani zona gialla, qualche libertà in più, ma niente di che. Sì, vabbè, non c'è nulla, a me non mi ha cambiato niente, tanto quello che dovevo fare lo facevo, se devo andare da qualche parte lo faccio, magari mi direi c'è meno traffico quando c'è la zona rossa, arancione, certe cose, magari vedi meno gente in giro, ma a me non me ne faccio nulla, se devo andare da qualche parte andavo, non mi interessa. Come mi stai ascoltando con questa radio? Bene, direi bene, ottimamente. Non ho il 3009, ho un altro apparecchio. Dammi anche un rapporto di segnale. Allora, qua è a cristalli liquidi, ovviamente più 30, fondo scala, non fa testo. Ah, ok, quale apparecchio sta utilizzando? Alinco, come si chiama? DX10, alias 135DX. Vabbè, la Linco, io ho un apparato, un veicolare della Linco, però non cosa, per le V, si chiamavano 8 anni fa, nuovo, ancora col cellophane, è un marchio, la sottomarca della Kenwood, in parole povere, la Linco, la marca commerciale della Kenwood, ma più che bene. Dimmi un po', ho visto una review, un coso, stanno vendendo una marea di questi 9.009, ma come vanno come apparati? Beh, bene dopo tutto. Allora, era quello che usciva bene di radio, cioè che tu che sia attaccato al mic oppure lungo tutto il braccio, è come avere un mic da tavolo, va molto molto bene. Naturalmente il consiglio mio è prenderlo nuovo se lo devi prendere, perché usato, se lo vendono c'è sempre un perché, se lo vogliono far fuori c'è un perché. Poi vabbè, sono tutti uguali, 7.009, 9.009, 6.009, più o meno la scheda è quella, grosso modo. Diciamo che il più piccolo di tutti è più watt, perché ha 60 watt in banda laterale, e in FM lo stesso una marea, credo 40 o 50, in M 30 modulati. No, a me non mi interessa, a me non piacciono i veicolari, però ho visto che c'è una nuova moda, prima c'era la moda della 48, ma sono tutti con Ghitri Superstar 9009. Sì, sai cos'è, l'Alan 48, a parte che se lo metti in base, c'è cioè stazioni vicine, è terrificante, invece con quelli bastano pochi canali di distanza, non fa abbattimento, non senti nulla. Qui sono completi, c'è la protezione da sovra e sottoalimentazione, protezione da stazionari eccessive, l'eco incorporato che tutti vogliono, tranne me e credo anche tranne te, è la cosa più inutile. C'hanno una marea di canali, tutti i modi di emissione, almeno quelli a parte il CV, dai. Vabbè, diciamo la gente fissa da golletto. L'altro giorno sono andato per sbaglio così, stavo girando il canale, sono andato sul canale 45 dove vanno i camionisti, tutta questa gente. Cacca, tu non riuscivi a capire una parola di quello che stavano dicendo, tutto ripetendo, cioè parlavano con l'eco e più facevano l'eco loro con la voce. E più c'era questo qua, c'aveva questo effetto riverbero a molla, però di quelli antichi che si sentivano 50 anni fa. E sta uscendo benissimo, bella, che ti ha detto quella radio? Una bella cagata era. Ehi, aspetta che abbasso, vabbè, volevo provare se funzionava. Ah, un'ora buona. Sì, eccolo qua. Ah, che bello. Adesso che so che funziona posso togliere. 1, 2, 3, questo è moderato e non è colto. Quello dell'apparecchio. Ecco, anche questo ha la stessa scheda di 9009, 6009, 7009 più o meno. Un po' più piccola è, credo che sia quella del 9009. Però ha dei finali molto più rigicati. 12 AM, FM, 24 SSB. Ma puoi aumentare la ripetizione dell'eco pure? Spero, ho abbassato il volume per sbaglio, vai. Puoi aumentare la ripetizione dell'eco? Sì, c'è la quantità e anche la durata. Adesso io qua non so come sia, per esempio. Così è un quarto. Così a metà. Tre quarti. tutto a manetta, aspetta, lo metto a metà, poi la velocità, un quarto, o viceversa, metà, tre quarti, in solito vaccate, tutto a manetta, non so cosa cambia perché ho spento il monitor. No, allora ti dico, a me non piace l'eco, però almeno questo è chiaro, pulito, non ti cambia la modulazione, ti fa un eco digitale che ti ripete o ti aumenta la velocità della voce, della ripetizione. È pulita, perché non capivo niente, tutti quelli senti qua questa specie di elicottero che non capivi niente, aspetta davanti vai a modulare così. Vabbè, però su quel canale il problema è che tutti chiamano, però siccome hanno potenze spropositate nessuno riesce a sentire, cioè si parlano uno sull'altro quando c'è propagazione e con quelle potenze alla fine non capisci né l'uno e nell'altro. Sì, ma io quello che devo dire, l'eco serve quando vai per dire in una strada dove ci sono delle colline che ti disturbano, che perdi un po' il segnale e te lo ripete, però se me lo deve ripetere, me lo deve ripetere chiaramente, no che non comprendi nulla, è come che c'hai un ventilatore e sotto fa dici così non capisci niente, infatti dico ma che vantaggio ne ha uno a fare una cosa del genere, perché mi dice siamo una giostra che devi fare spettacolo, ma uno lo fa per farsi sentire, non per non farsi, per rendersi incomprensibile. A me piace il Mac normale, a molti quello da tavolo, a chi piace il K, a chi no, sono gusti, cioè a molti il Mac normale dell'apparecchio da palmo non piace, preferiscono il Mac da tavolo. Io qua, vabbè, non per lo spazio, ma non mi ci va la mia microfono a tavolo. Se l'ho l'MB più 5 nuovo, l'avevo preso da Fusaro, se ne sta ridendo dentro la scatola, gli ho tolto anche la batteria. No, io il microfono da tavolo ne avrò una ventina, l'unico che ci ho attaccato è quello della LAN 48 l'M93, ogni tanto lo rispolvero, però io non ci riesco a parlare con i microfoni da palmo, sono scomodi, a me piace stare seduto, schiaccio il PTT e parlo, così come sto facendo adesso, molto rilassato, invece con questo microfono in coso ti giri un attimo che magari l'emissione, insomma sono abbastanza direttivi quei microfoni, come lo giri appena cambia, cosa hai detto, non ho capito, invece io, grazie a Dio, non per vantarmi, l'emissione mia è sempre lineare, nel senso non ho né alti né bassi, e nel senso di parlo di modulazione, non dico di qualità, parliamo di livello di modulazione, è sempre standard, perché sto seduto 50 cm al microfono, posso uscire una cagata o bene, questo non sta a me valutarlo, però almeno l'emissione è regolare, non ho picchi di coso, o alto o di basso. Luca. Buonasera, chi è entrato avanti? Ah, benitus, ti senti, mi sembra di Luca, sei un po' bassino, il segnale è buono, però basso di radio, ti sento un po' basso, come mai bene? Aspetta, appena compro l'antenna e non metto l'altra, sono al numero adesso, lo sto arrangiando. Com'è adesso? È un po' alto, però sento tipo qua c'è qualche vento là vicino, sta amplificando, però sento un rumore di sottofondo. Sento il vento qua, sento il vento delle porte. Ma con che microfono sei? Bene. 60. No, c'è ragione. Si sta arrangiando un pochettino l'alimentatore suo. Ma con cappa sì. Cappa. Oh, c'è questo rumore di sottofondo, ti sento una voce molto lontana, a che distanza sei dal microfono, benissimo. Guarda, adesso sono calmo. Però sembra che, cioè la voce è abbastanza chiara, però sembra che sei molto lontano, e sento questo, quando sei in macchina che c'è un finestrino aperto, un effetto del genere di vento. Potrebbe essere accompagnato anche dall'alternata, potrebbe. Ciao Benito. Ma il processore è inserito, bene? Sì. Ti sento strano, non è la tua modulazione solita, ma non è che hai toccato qualcosa a livello microfonico, l'impedenza del microfono, a quanto c'è l'impedenza? Break. Allora, registrato un attimo. Ti sento un bel di alternata adesso, l'impedenza a 500 ce l'hai a 50? A 50? Sì, e poi è anche come un po' cupo, ci

Riprendi Anto. Buonasera. Vabbè, allora. Sono appena ritornato, mica ero fuori, ero. Oggi. La mia zia. E tu lei di oggi, l'ha rostita tu. Cappa, ha rostito, ha giocato, cucinato la pasta. A giumano si grebbano i miei cugini, ma niente, perché io so cucinare bene. Dove eravate, in campagna? No, al monte. Ah, da tua casa? No, vabbè, c'è un terrazzo loro. Ah, ho capito, vediamo Benito adesso come esce. Avanti bene, ho cambiato radio, niente, si è sentito, Marco? Sì, con l'orecchio mio. Con l'orecchio mio non cambia nulla. Ah, tu di fretta hai sentito? Da chi? Da me. Che differenza è? Però vedi una domanda, ma cos'è il 14 o il 44? 4:30, non ho capito la non sta uscendo bene, non so a quanto ce l'ha il Mickey Game, se sei strana la modulazione. È come cupa con un po' di alternanza, vabbè, niente di che, magari qualche regolazione. Robè, forse questa è con toni un po' meno bassi la tua, può essere? Molto limpida, molto apprezzabile, come dire. Va bene, dai, questa è la mia solita, poco fa era un'altra radio, stavo provando. Guarda, se non me l'avessi detto, però questa è molto molto bella, molto ma molto bella. Sì, ok, vai Anto. Beato te almeno che oggi è giornata strana qua, non sono svegliato troppo tardi, ero tutto scombussolato. E quindi vai Anto. Mi è desaparecido smi. Oi, buonasera, groppe. Ciao Gianni, ben entrato. Ciao Gianni, anche a te ben entrato, avanti. Gianni? Si è scoppiata l'antenna. Eccomi, no raga, sto smontando un computer portatile, quindi sono entrato a salutarvi, dai, rimango in ascolto, ok, appena c'ho le mani libere già mi faccio sentire. Buonasera a tutti comunque. Io ciao già. Bella radio, sempre bella, quella di Gianni è una delle più belle, mi piace tantissimo, per un baracchino c'è la grande. Capo, già, vabbè, quel microfono era stato azzeccato, era stato. Sì, anche tu ci bene, Antu, però lui per essere un baracchinetto esce alla grande. Capo, eppure io c'ero il baracchino. Eia, vediamo se Benito ha risolto. Avanti Benito. No. Quindi stai uscendo male. Ho provato a abbassare, ma dimmi un po', come alimentazione, tutto a posto, sì, la tensione giusta, l'alimentatore riesce a darti la corrente che chiede l'apparato e il microfono a che livello ce l'hai? Quanto l'ha potuto queste cose? Sto controllando. Allora Roberto, l'alimentatore è il suo, della linea. Ti sento tutto masticato, cazzo, mi chiedi conferma, io ti sto ascoltando con un apparato, è con l'altoparlante esterno, non è un semplice baracchinetto, c'è l'altoparlante esterno, però non sei tu, vedi, mi dispiace dirlo, sei molto sporco come modulazione. Il problema è questa alternata, ma è stazionare, è a posto, insomma, con l'antenna. Sì, ma lo sento anche io adesso, infatti, l'alternata. Ma cosa strana, vedi, sembra che sei molto lontano dal microfono, che stai parlando da almeno un metro, due metri, in una camera vuota e si sente la voce tua lontano, è in evidenza questo rumore sotto, questo disturbo. Però se non si cambiano posizione il microfono. microfono, adesso provi a cambiare il microfono. Prova, va bene. Ma tu stai entrando col capo adesso, non tu? Ho quello lì. E a che distanza sei tu dal microfono? Un po'. No, non sono vicino. Con un braccio c'è di distanza? Sì. Ah, già va bene tu. Però lui lo sento strano, cacchio. Mi dispiace, ci va bene. Veramente c'è qualcosa che non va bene. Hai pare problema di massa, mi pare. Avete visto il ventaccio di oggi? Ma cos'era, maestrale o quant'altro? No, era vento da sud oggi, doveva essere di Beccio, se non sbaglio, perché era da sud il vento. Aveva ragione mamma, porca miseria, figlia di marinaio ha azzeccato. E oggi era vento caldo. E via. A Langhiero c'era venticello oggi, se andava in mare lo prende in pieno di Beccio, a Platamone invece fa vento di terra. Sì, già è vero, già. Infatti già l'ho visto cuparando, perché lo sapevo che cosa avere in Chivi. Avanti, bene. Benito, se sei tu, allora alternata non ce n'è, ma radio è assente, si vede solo la portante. Non sto uscendo di radio, l'alternata non ce n'è, ma non stai uscendo di radio. Hola. Milomi. E adesso? Vai a parlare, bene? Ce l'ho appoggiato in mano quasi, dai. E adesso hai migliorato parecchio comunque. Confermo, migliorato parecchio. E mi pare non ci sia alternata nemmeno. Ma che antenna stai utilizzando? Allora, adesso c'è una boomerang perché l'altra se n'è andata a massa e quindi appena finito di cantare una boomerang così, niente. Adesso sei tu, stai uscendo pulito, chiaro, 9 più 10 segnale radio 5. Caparo bene. Allora quell'altro microfono, questo è il microfono che uso nel 140. E il microfono? Che uso nel 140. Ma non è il 60, no? No, no, è il 60, è il gemello. Ah, ne hai due di 60, no, non lo so. Sono due linee, capito? Ho capito, adesso sei tu, stai uscendo pulito e si sente anche il PTT quando stacca, niente da recepire. Così devi uscire, poco fa purtroppo stava andando male. Anche forse ho visto l'antenna tua, l'usai? No, la tua, scusa, di Gianni il Goffetta. Chi è? Ho visto l'antenna tua, Gianni, sono passato ieri, davanti al corso e ho visto un'antenna su, sicuramente la tua. Vabbè, già non è al corso, già lo sai dove sono. Quella lì è. Vabbè, non corso Vittorio Emanuele, l'altro corso stavo dicendo io. È già quella. Non penso che ce ne siano molte. Quella di Antonio, quando vado in piazza, come si chiama, quella piazzetta che mi ha detto lui, prendo il telelettrico e gliene butto un radiale. Non ho un radiale io, se sei bagliente. Mi ha detto con la testa, cosa avevo su truccante, la base, che cosa da truccare. Ho visto un telelettrico bello oggi su internet, c'è anche il fascio laser, ti mette di notte, per usarlo di notte. Non ti conviene, perché poi c'è a casa tua, la stacco, mi piace la tua mantova. Allora mi conviene aprire, ok. Vediamo Benito di nuovo, avanti a te Benito, poi farà girare per Marco. Capo positivo, ancora dillo a me che mi disantenne. Non ho capito bene che mi stava dicendo, dimmi. Ho detto, dillo a me che mi serve un'antenna. È vero? Capa. Oddio a Ringo. Ah, io ci arrangiamo, adesso vediamo, dai. Ma adesso Roberto Marco, avanti Marco. Ehi, Benito, puoi dare un'occhiata allo Smitter? Volevo sapere se quanto incrementava, guarda. 1, 2, 3. Santiago 7 e con tutti positivi a 8. E senza? Aspettami. Senza. Senza sei tornato come si può fare. Santiago 5. Positivo leggermente. Vedi, io quanto arrivo per curiosità, se arriva così basso lui. Tu arrivi Santiago 7 a picchi di 8 per me. Che strano, tu stai arrivando a 9 più 10, ma eppure cacchio, io dovrei irradiare, non so se, cioè io lo so che non ne uso potenza, uso massimo una decina di watt, non di più, però cacchio, c'è una differenza di segnale tra me e te impressionante, tu probabilmente in ricezione sei un po' scaccino. Sì, parecchio scaccino, perché mi hanno mandato dei messaggi, guarda che c'è propagazione, vai lì, vado, e ne riuscivo, sei pieno. E io, che sono un po' più nascosto di loro. Tu sei Santiago 4. Forse arriva appena appena di più Gianni Brofetta, perché è più aperto. Sì, è strano, una differenza abissale tra ricezione e trasmissione. Ecco. Avanti, break, Massimiliano, tu sì. Via. Buonasera a tutti. Sì, ciao Massimiliano. Secondo me lo svizzero è un pochettino raro, comunque, benissimo. Non è possibile che ci sia una differenza di due punti tra me e te, cacchio. Guarda, non lo so. Ciao Massimiliano, vedi, Massimiliano non per 20. Ciao, beh, tu sei 9.30, ma sei con l'alternata sotto. Non lo so. Oggi non mi sta funzionando bene l'alimentatore. Ciao Massimiliano, ben entrato. Tu Marco, abbassa la cosa, sennò mi sfasci lo Smith. Per farlo lavorare ogni tanto, sennò qua tanto vuole buttarci tutto. Ciao Massimiliano, ripeto. Ciao Marco, ciao Roberto, ciao Antonio, Benito, poi non so chi c'è ancora, appena tu. Da me sei 9 più 45 comunque, Marco, mai così forte. Vabbè, sono da 3 e mezzo e 50 attaccati, 50 misurati, misurati. Una bomba, sì. Ok, vabbè, quanto ti arriva quindi adesso con questo segnale? Scusa Massimiliano, con questo segnale quanto ti arriva Benito, Marco? Allora, Benito mi accende, e praticamente mi accende a lampeggio la spia del 9 più 10, dovrebbe essere un 9 più 5. Forse è incrementato rispetto all'inizio quando è entrato. Passiamo 9 più 5, dai. È anche generoso questo LED. Ma vogliamo fare da bravi qua, eh? Mi rabuzza entrando, dammi. Aiuto. Cazzo rola, no? Mi senti provocando, mi senti. Aio, vai, vamos. Io sto un piccolo. Bene, quanto ti arriva Marco con quella posizione di prima? Come lo No, ho detto a Benito, come gli stai arrivando tu con questa potenza che stai dando adesso? 7, 5, liscio, siamo lì, 7, sì, ci siamo, da 3 a 50 fai, sì, siamo lì, il rapporto c'è. Riprendi Massimiliano. Gatto, gatto, dai, dai, sono qua in ascolto, dai, riprendete, riprendete, fate prove, vai, vai. Comunque è tua roba che non si usa, robe. Cioè, il microfono se ne sta ridendo, linea retta lo stesso lo uso solo per non farlo rovinare, lasciandolo mesi fermo. Tanto vale regalare tutto, io mi metto la bancarella, prendete e mangiatene tutti. Io sto arrivando. Vieni, come ti arrivo adesso? Santiago 5, Radio 5. Lascia scaldare qua che va freddo. Ora. Secondo me lo smitter tuo c'ha qualche problemino. Non è possibile che tu c'hai la Radio 5 con un Santiago di 5. Mi sembra molto strano. È strano, eh. Ah, che c'era tenuto reinserito benissimo. C'ha l'RFG regolabile o l'attenuatore col taschino, quello lì? C'è il taschino, è buco. Ah, quindi ti attenua di un tot fisso, diciamo, dai. 20 dB ti toglie se schiacci il tasto. 4 Santiago, potrebbe essere proprio quello, mi. Benito, controlla. Che ha fatto? Non so che sta facendo la lucetta, quando io schiaccio mi sta facendo la lucetta. Le caratteristiche sono accese, ce n'è sempre una. Oh, benissimo, questa alternata che c'hai, cos'è? Alimentatore. Sì, ma non lo deve fare se mica deve fare l'alternato. Ma infatti, aspetta, cosa che ce l'ho all'interno, è tutto aperto, guarda adesso. Ecco, adesso non ce l'hai più. Perché ce l'ho proprio vicino all'alimentatore, il microfono. Qua mi arriva a picchi negativi, Benito, comunque. Sì, ma l'antenna lì, là. Va bene, dai, riprendete, vi saluto a tutti, buonasera, è stato bello, ci sentiamo le prossime, ciao ciao. Ciao Massimiliano. Ciao Bulldozer. Ciao Massimiliano. Ciao Massimiliano, ciao. Kappa kappa. Gianni, ma lo smitter te fa scendi. Tranquillo che c'ha l'ABS il mio smitter. Ciao Massimiliano, buona serata. Un'informazione a Benito, le tue coordinate quali sono? Ottawa. Ah, K, ok. La boomerang qual è? Quella piccola o quella grande? La piccola con la due radiali. uguali. Sì, ma c'è la grande che è 2,75, l'altra è più piccola. La più piccola. Ah, ok, grazie. No, io perché ho la ringo, ma la boomerang della Lemmy, quella da 2,75 m, te l'ho chiesto per quello, per curiosità. Ah, sì, così, sì, ve la conosco. Me la volevano prestare, ma no, ho detto, mi metto l'antenna e uno si vede, adesso mi arrangio così e boh. E cosa, Bini, come ti arriva già nel brofetto a te? Sono guardato, vai già. 1-2-3-1-2-3, test radio, 27075. Positivo, Santiago 4, radio. Bene, bene, da. Ripeto, lo dico di nuovo, secondo me c'ha qualche problemino lo Smith, non me lo toglie nessuno. Non è possibile che un Santiago di 4 ti dia una radio di 5, è impossibile. Secondo me quello Smith magari c'ha qualche cosa che non è lineare come segnale, per dire, i segnali quelli più bassi te li tiene bassi bassi, quelli furti furti lo fanno su. A me è capitato a me su un apparato, non è perfettamente come si chiama, lineare come livello di cosa, di segnale. Comunque non è un granché. La boomera, quella grande, quella pompa. Cazzo, quella è una bestia. Confermo. La boomerang della Lemme, quella lunga con lo stilo 2,75, va molto molto bene. La mini ce l'ho buttata in un angolo perché troppo caricata, poi lo stub gli hanno fatto troppo lungo, lo devi tagliare perché sennò è elettricamente lunghissima, vabbè. Gianni, tu avevi deciso di farti la Game Master? No, ci ho rinunciato. Ci ho rinunciato, dai. Appena rimedio qualche soldo mi prendo la Venom. Adesso sto passato alla parte cruciale, devo scoperchiare il PC, quindi mi assento per un attimo. Forse è la migliore, forse. No, permettetemi di sentire però. L'hanno anche alzata di prezzo, ti ricordi Anto il prezzo che aveva prima quando ne parlavamo noi un anno fa? L'hanno alzata di un bel, cioè a quel livello aggiungi 10 euro e prendi la Energy direttamente, che c'ha prima di tutto un piano di massa migliore, cioè radiali da 1,30 non da 50 centimetri. E poi appena appena più lunga, sono tipo 6 metri, 6 e mezzo dovrebbe essere. La Venom è intorno ai 5,80 mi pare, da 5 ottavi. È come un po' più caricata a me. Ma la Venom è molto più facile da piazzare. Ma la Venom, quella che ha sostituito la Mantova? No, la Venom è quella che ha tre radialini distanziati a 120 gradi tra loro, quella che ce le ha piegate a banana, mi corti, sembra una X30. No, non la conosco, perché Riccardino aveva comprato quell'antenna che sostituiva la Mantova e funzionava bene come la Mantova, te lo ricordi? Poi quando l'aveva piazzata andava alla grande. La Blizzard. Quella è Blizzard, o così, o come cacchio si chiama. Quella è un bestione di antenna. Molto bella la Blizzard, adesso che le Mantova non si trovano più è un'alternativa buona, e d'altronde se no cos'altro c'è di 5 ottavi italiane, dico, o quasi italiane, perché dubito pure che la facciano in Italia, vabbè. C'è quella nuova, come si chiama, che dello stesso dipendente che ha costruito la Mantova, del proprietario, il fratello, come si chiama, adesso non mi ricordo il nome, perché ho visto le prove comparative strumentali in trasmissione, era leggermente meglio del coso della Mantova, in ricezione c'è qui qua leva, no? Grazioli, bianco per me, che ci sentiamo tra un po'. Ehi, ha detto bene, la Grazioli, il contrario, era meglio in ricezione e in trasmissione c'è quel valeva. Ehi, Anto, sì, bella la Grazioli, certo impegnativa perché bella, materiali generosi, poi radiali 2,75 m, sai quante cornacchie ci stanno su 2,75 m di radiale, mamma di turchi. Ma ti danno una specie di anello per tenerli, distribuire il carico, già lo so, purtroppo quando sono grandi le antenne basta un piccione, non una cornacchia. Io ho visto una scena, mi ha fatto troppo ridere, all'emiciclo stavo passando, davanti a me c'avevo un fuoristrada, una Land Rover nera di quelle, però delle ultime che hanno fatto. Lo sai cosa ha fatto questo? Nel paraurti di dietro si è legata una cornacchia, non ci compreso il bagaglio, perché normalmente le cornacchie le metti per non farti avvicinare se c'hai i terreni, questo sarà legato al paraurti, una curraccia mussa nel paraurti di dietro. Morta. cacchio. Senti, sto dicendo, è un po' che può essere, sembrava una straccetta, ma questa cosa legata dietro, con uno spago a cabingio su è legata dietro, ma questa è una connacchia, ho detto. Magari è bottino di guerra, metti che l'abbia presa in velocità e ce l'ha appesa tipo carniere. E per tipo carniere era così, attaccata alla rete, infatti, ma che strano. Ma non è per le connacchie, se tu c'hai una campagna che ti mangiano la frutta, le cose, per non farle avvicinare, prendi una connacchia, la leghi in un albero, in un palo, e non si avvicinano più, perché sono molto intelligenti come animali. E questo ha fatto la stessa cosa per la macchina, ma che per non farsi cagare la macchina, cosa vuoi che ti dica? Che cosa strana. Chi ci è rimasto qua? Benito? Vieni, ma sei molto avanti in ottava tu. Tu sei allontanato probabilmente. Anche io tra qualche minuto mi devo allontanare. Che devo fare cosa? Di nuovo a te Marco. Sì, io, che ora è? È l'ora di sgranocchiare qua, porca miseria. Ok. Cioè, sentiamo, anche Antonio si è allontanato, quindi gira, gira, stacchiamo adesso. E tanto mamma aspetta me. Vabbè, sentiamo. Ok. Qua rimane acceso, ma no, non credo che riprenderò. Vediamo. Ciao, buona serata a tutti. Antonio, Benito, chi altro c'era? Gianni, in ascolto, tutti. Ciao. Neanche io sto preso a fare cose importanti, dai. Ciao di nuovo Marco, ciao Antonio, sperando che rientri nel frattempo, perché se magari non trova nessuno non è un problema, perché adesso sto spegnendo e per oggi non rientro, devo fare cose più importanti, dai. Ciao Benito, ciao Massimiliano e tutti gli amici qua, Gianni Obrofetta qua sull'ascolto sul canale 10. Ciao ciao a tutti, correti definitivo da parte mia. Ok, ciao a tutti, allora, adesso che avevo deciso di entrare io, state salutando tutti. Buona serata a tutti, ciao, ci sentiamo, chiudo anch'io. Ciao Giù, mi dispiace, purtroppo devo fare cose importanti. Ciao ciao. Ok, ciao ciao, non c'è problema. Ciao. Ci mancherebbe. Ciao Giulio, lei è un po' in ritardo, si è entrato. L'ora mia è questa. Al limite più tardi, se non mi abbiocco malamente. Ok, ma non c'è problema, dai. Stacca pure, io scendo giù e ciccia, non se ne parla. E allora vado a vedere la televisione, forse ci sarà qualche partita anche. Adesso la cerco e vediamo un po' cosa trovo. Vabbè, dai, ci sentiamo, ciao Marco. Comunque mi stai andando molto molto bene, molto forte. Ciao Giulio, buonasera. Ciao Antonio, ciao. Buonasera anche a te. Capo, ci sono io. Ok. Vabbè, dai. Adesso anch'io scendo, dai, non c'è problema. Vabbè, ciao di nuovo, tu ciao, allora ci sentiamo, dai, alle prossime non c'è problema. Ok, ciao Benito se mi stai ascoltando, ciao Gianni, lo profeta, ciao poi chi c'era, Massimiliano avevo sentito poc'anzi per un attimo, se si è all'ascolto, Massimiliano saluto. Saluto a tutti, chiudo, ok. Ciao Giù, ci sentiamo. Ciao Giulio, ciao. Ero attaccato, non me ne ero accorto, me ne ero dimenticato. Ciao anche a tanto, ciao. Ciao, ciao. chi è? Certo, e chi può essere di Lettofferie? Io. Ah, ma sta di nevaria. Ma cosa c'è attaccato? Aspetta, guardo sotto. Sì, non me ne... vabbè, dai. Parlare con Muro. Ehi, a buonasera, andata lì. E se non mi sono 56 qua. Allora passo. 4 watt. Non ci credo, ciao Nathalie, non ci credo Nathalie, ti passo da qua, e siete vicini? Ma sono con 4 watt. Guarda che c'è 9,50 a me qua, c'è una cosa spaventosa a me. Abbai da va. Passo di me, allo grippo, già passo io, Nathalie non passa, non può passare Nathalie. No, adesso già ti dà di mattana, no? Beh, c'è un limite, dai, c'è un limite, siete vicini. Come vai a cazzarsi, lo attacco pure io. Avete parlato in due, non è passato né l'uno né l'altro. Ho detto che è logico che mi passi, se ero basso basso. Ma voi siete più vicini in proporzione, no? Ma vuol dire che le antenne vostre si vedono, non si lontano da costumi, se vogliamo. Io non ti gridino, Natali, non è che la distanza sia tanto, no? Sai quanto dovrebbe essere, Anto? Presumo 1,100 km, massimo 1,200 km da te. 1,200 km, sì. Non lo so tu quanto sei da me, ma sei di tutti vicino. Beh, uguale, no? Se tu sei distante da me 1,100 km, io sono distante uguale 1,300 km, non cambia. Cappa, non è che io ho tanta potenza io adesso. Ci attacco Guido, vischiaccio. Abbassa la polvere. Cappa, ma non stai tranquillo. Dai, stiamo tranquilli, dai. E comunque siete forti, la verità. No, cioè, vabbè, siamo vizzino, siamo a due bassi, cioè. Distorce, ditemi se distorce la modulazione. Guardate, così sono a quattro dita. 1, 2, 3, e così vicino, 1, 2, 3. No, va benissimo, non c'è problema. Oh, mi ero dimenticato che mamma mi ha chiesto il caffè, stavo preparando per preparare il caffè, devo andare. Ciao, ciao belli belli. E io me lo sto già bevendo. Macchiata, me l'ha fatta la mia scopata, la mascherina. Di traverso, Natalì. 380. Cappa, e cos'è che c'è telegrafia? Telegrafista, Natalino mio, è diventato telegrafista, lungo di canna e corto di vista. Che ti vedano. Ah, la vista sta calando, La canna ancora non è lunga, ma ci stiamo lavorando. Ciao a tutti. Marco, a me me l'hanno già rotto all'ospedale, quindi ormai non c'è più nulla da fare. Allora anche a me, guarda che quando ero in urologia mi hanno fatto per la prostata la risonanza, no, l'ecografia transrettale. Praticamente ti infilano una sonda dietro che è grande quanto una cedda, a dirla tutta. E da lì vedono la prostata proprio attaccato a distanza zero, capito? Sì, già lo so come si fa con le scuola tante. Di medicina stiamo Invece a me facevano l'ispezione anale, ne veniva un'infermiera, con questa cosa longa, zacchede. Ah, una donna, ma è giusto che lo faccia una donna queste cose intime? Boh, secondo me ci pigliano gusto mi, per fare una ripassa sugli uomini. Allora, prima lo fate voi a noi e noi poi lo facciamo a voi, così a lavare una pioggia. Oh, c'era una dottoressa, a me me l'ha presa in mano la pioggia da me. Ma lei te l'ha presa in mano professionalmente e con i guanti. Dai, vi lasciaci. Tu mi fate ridere, ciao ciao. E dopo entra che ti faccio ridere. Cappa. Anto. Mi dica. Anto, cerca di non ridere molto, se no ti bagni addosso. Mi si sta ruggando e mi è cappa da risa cura ridu. Hai sentito come stava? Quando quasi così si fa della ragione, Guruedo. vero, scusi. Pur vuoi dormire. Come ti si chiama Rugani? Kurt. Kurt, non dici? Sì, Antonio, di Antonio mi ti sta chiamando. Rispondilo. Ma è Danny, è puzzinoso, a me è da rubare a chino, da un 10 stavolta, avrà pensato. Cane così, sì, va un'intelligenza, puzzinoso, è bravissimo. Ci abbiamo fatto il vaccino. Ah, ce l'abbiamo fatto il vaccino, Antu, senza appuntamento né niente. Perché la dottoressa mi ha detto di andare che già me lo faceva, non è così tardi, sia me che la 50 ci hanno vaccinato ieri. Ah, è vero. La dottoressa vostra? No, siamo andati a Predanida, la dottoressa me l'ha detto di andare, perché io l'ho prenotato, però non mi ha chiamato mai nessuno, hai capito? Ha detto di andare che già me lo faceva, non è così tardi, sono andato a Milano in vacca. Allora chiedo pure io. Perché tu sei a contatto con la gente, col tuo lavoro, capito? Capa, ma voglio fare sì il vaccino. Adesso chiamo il mio medico domani. Domani? Infatti glielo dici a vedere com'è la situazione. O se no a prenotarti. A che ora iniziano i urbaghissi giovani, le vaccinazioni? Stanno facendo prenotazioni online. E online le fanno le prenotazioni. Anche nelle farmacie, a me mi avevano prenotato nella farmacia di vicino a casa, Antu. Ho capito. E adesso, adesso vedo un po' questi giorni. Sapevo che artificio bisogna oggi. Sì, alla faccia. E per un giorno. Agenteggio, cosa è sta cosa? Ma tu i candelieri li vedi da Corso Vico? Non è in Corso Vico, no. Lui, è dove... Già rivengo, già, se sono vicino, sono. Intendiamo pure forte in ogni. Mi sentiamo. Se Maciaro già rivengo, già. Lavori ce li fanno, ancora non si sa nulla. Bisogna vedere come ti andano i ricontaggi, Antu, è un macello. Se non ci vacciniamo tutti, perché dicono alla fine dell'estate dovremmo essere vaccinati tutti. Se vogliamo niente, non li può fare. Cosa c'entra? Un obbedienti, bisogna che siamo vaccinati, se siamo vaccinati siamo immuni, capito? E lo può fare i candelieri, chi l'ha detto che non lo può fare? Se siamo immuni sì, se no no, e bisogna vedere pure come sono i contagi, capito? Loro guardano i contagi, se salgono o se rimangono normali. E adesso stanno scendendo, per esempio, e poi con il bel tempo scendono ancora di più. Infatti ci aiuta quello che sta per venire, l'estate sta per venire. Così dicono, ma qualcuno sembra che ci goda a vedere un casino, boh. No, mi dice, un virus è maro, mi hanno ammazzato poco di bassoni. Quella va a vedere, ma è troppo strana era cosa, Natali. No, sono dati ufficiali quelli, non è che... Oggi ne sono molti e ogni lì ne morino bene. Stanno abbassando i ricoveri in terapia intensiva e da tutte le parti. Speriamo di essere vincitori dai di grazia che ci ha colpito, perché questa è una disgrazia. Speriamo, è una disgrazia per tutti però, per chi deve lavorare e per che cosa, è una disgrazia per tutti. E infatti, perché non è solo il discorso del lavoro, è il discorso della salute pure. Insomma, questa gente deve pur lavorare, poveracci, se tu non li fai aprire è un macello. Lo so già. Mi ci ha che poco il travaglio, boh. Vaggio. Ui Claudio, buonasera. Ciao Cla. Buonasera, buonasera. Ma mi sembra aver sentito Eugenio che sta chiamando comunque. Buonasera a tutti, dai. Solo per un saluto. Eugenio, mi ascolti? mi sembra che sentite Eugenio. Attento Eugenio. Facciamente, canale di morti. Sonno. Ma che l'ha detto canale di morti? Eugenio, ha detto attenzione al canale di morti. Aga! No, ha ragione, no? Va bene, vai. Solo per un saluto, fratelli. Un abbraccio a tutti e buon fine domenica. Ciao! Altrettanto! Capa, ciao, cra, sentiamo. Ah, t'avevo chiesto una cosa, ma non me lo puoi fare, per favore, me l'ha chiesto lui, me l'ha chiesto, Roberto. No, veramente il messaggio mi è arrivato poco fa, io messaggi qua ne ricevo pochi, domani devo andare alla team e cambiare compagnia, perché qua non prende. Adesso me lo scrive un pezzo di carta e te lo mando, ok? Me l'ha chiesto lui di farmela avere, capito? Non c'è problema, te lo faccio avere. Dai, vi saluto, ciao. Ciao, Cla, ci sentiamo. Ciao Claudio, ci sentiamo alle Prusse. Ciao Tataricia. Gappa. Non ti compreso cosa so che si darsi, boh. Fantastico. No, non so come vedere con te. Cosa vuol dire Natale 1 MKZ? Un megahertz. Cosa significa il sondaggio? Spostarsi di un megahertz. Forse ho capito. Quello non lo conosco neanche tanto bene io, perché non l'ho mai usato, quello lì. Perché il mio era diverso, era quello più grande, quello che avevo io. Quello non l'ho mai usato, però se lo vedo già. Capa. So che si tende a Marcellino che mi ha banine. Ah, io ho già mangiato, mi ha fatto anche il caffè, la 50, e me l'ho preso, alla faccia di Marco sempre. Capa, la faccia? Hello. Io compro quello, Guido, oro, quello che costa di più. Io, la faccia blu si chiama questo qui. E ma è decaffeinato? No, non è decaffeinato questo. Scappa. Io compro quello là, quello arabico, questo mi costa di più. È buono me. Ma lo prendi, la lavata si sa che sono caffè buone. Il blu mi sembra che costa di più di tutti. Magari chissà. Chi è che vuole entrare? Avanti! C'è qualcuno abbasso sotto. Sarà Eugenio, io non lo sento per niente. Io ci salutiamo, basta lì, sono arrivati, ci sentiamo, ciao. E ciao, buon tutto. Attenzione, chi è che c'è qua? Il carabinieri di Ardala. Vabbè, Antone. E allora. Chi se vorrei pure la putti Antone? Ma quando mai? Chi? Ci siamo i Goldo. Che cosa ti ha detto? No, niente, te l'ha già detto a te. Mica sono sveglio, qual è la cosa che ci fu? Cioè, se mi avrebbe detto 20 euro... Tanto quanto avrei chiuso gli occhi? Ma una cosa usata, cosa? Cioè mi dici di 30 euro, no, non ci sto. Eccolo, con la cesi l'ho troppo. Beh, è logico. Io non so quanto venga la cesi con la cesi, il meglio è quello, hai capito? Poi... hai fatto bene a pigliare la cesi, non è che non hai fatto bene. Tu immaginate che io da internet ho preso il monoculare, l'ho pagato 57, vado da... lì a fianco alla pezzetta, l'ho pagato 15 euro, l'ho pagato. Lo stesso binocolo, però la cesi è identico. Ma sai quanto costa? Una cosa del genere, 28 euro. Ma va bene, ho visto che mi ha dato la fotografia, è bello, veramente bello. Non è brutto, no? Grazie. Tu l'ha raccattato, anzi l'ha raccattato, l'amico suo l'ha raccattato dal cassonetto, figurati. Adesso che mi sa posso da una pila a due, solo che devo fare ho messo le batterie con le piccole, forse di quelle che monta quelle originali, no, quelle grandi, nere. Ho messo quelle piccole da 1200 mAh. E ora la lampadina va bene, a due si abbassa un pochettino di più, capito? Adesso devo telefonargli e glielo dico. Comprati le batterie da coso, lì da Fusaro, comprate almeno 2, 4, 6, 8 batterie mi servono, ecco. E cosa meno c'è da pila? Fate i conti, dico, sono 3 euro l'una costano. E se no la pila me la tengo io, gli dico e basta. Cosa vuol dire? Che tanto c'è anche la tua lampada, c'ho. Devo fare lo stesso lavoro che devo fare. Nato c'è il LED però, non c'è il neo, nato c'è il LED, c'è proprio una fila lunga di LED. No, c'è questo 24,95 euro e tu me lo vuoi vendere 30 euro usato, ma la niente, ma quanto vuoi pigliare per un guro? E cosa vuoi ti dico? Ciò che abbassa tutto un po' tappare diceva quello, ma come si può di prezzo quanto viene? Sono andato ai cinesi di giunta, ho detto guarda che gli avrei detto a lui, guarda che costa 24 nuovo, dagli ora meno 15 euro, e già va bene per 15 euro, ho detto. Ma certo, però mi di 30 euro se mi si prendendo in giro. Non è successo niente, non ti preoccupare. Se l'ho trovato nuovo, guarda, è molto meglio di averlo preso da un cassonetto. Capito? È che bisogna fare i giri, capito? Bisogna sapere i posti esatti, loro che sono vigilanti la notte, capito? Vanno in giro dopo che finiscono l'orario, vanno lì dietro la piazzetta, capito? E dove c'è la scuderia, lì c'è un coso grande, sai quanta roba ci butta quello? Se c'è la qualcosa, si riempiva la busta, si riempiva la notte. Di questa roba, trappile, no, roba del genere, non faceva altro che sistemarlo e poi prendeva la valbassa e le vendeva agli amici, per dire, te dammi 20 euro, tirati la lampada, e qui dovevo aver ciappato e un gassoletto, magari c'era un filo staccato, cosa del genere, a volte capita magari una... anche quando abitavo al centro storico, sai quanto ne trovavo, perché c'erano i cinesi lì vicino, a fianco a me, andavo lì la notte, dopo le 9, ma sai quante cose trovavo? Me le mettevo a posto e me le tenevo, anzi le regalavo a Giovanna, addirittura c'erano, quel periodo c'erano quelle racchette che erano ricordi, quelle racchette che si usavano d'estate per zanzare. Sai quanto ho trovato di quelle? Messa a posto, c'era qualche filo staccato dalla batteria, cose del genere, a volte magari qualche batteria da cambiare. Quelle erano belle per la scossa, amiche. Fatta la modifica con due pernetti, l'appoggia al pantalone di qualcuno, lo sai come brinca. Ma i cinesi di dove? Ma perché ci buttano la roba fuori? Sì, quelli con seguito Emanuele, i cinesi. Allora, se tu vai verso le 9, 9 e mezzo di notte, in quel cantone che buttano lì in terra, è tutto pieno di roba, me. Lampade, roba del genere, qualche radiolina, eccetera, eccetera, oppure orologi, di tutto ci buttano. Roba che non funziona. No, roba magari che non funziona, che arriva anche a loro, per dire, no? Ma accendono, non funziona, accendini, tanto per dire, roba così. E ce la buttano. Ma adesso io non abito più in questo vito di Marombello, prima passavo lì verso le 9, sai quanta nella scatola quanta roba trovavo. Me la prendevo, quando avevo la busta, me la mettevo dentro la busta e me la aggiustavo. Fregavo a Giovanna o qualche amico, non me ne fregava niente, più che altro per non stare senza famiglia dentro a casa, capito, lì in Via San Donato, e mettevo a posto quella roba lì e mi divertivo, le regalavo più che altro. C'è un pagappa, roba... Cioè, non mi è mai capitato la verità, allora che passo io, si va già pigliato gli spazzini. Sì, se tu vai la mattina gli spazzini si... Non hai visto che sono sempre col coppietto di dietro, sempre a petto, è lottato, si fa il giro di cassonetti la mattina. Ho visto quello che viene qui in via Carlo Felice, fa finta di spazzare in terra, raccogliere qualche pezzo di carta, cosa è, e poi guarda e controlla il cassonetto se c'è qualche ricevitore, roba del genere, capito, se lo mette lì, se lo carica, dopodiché se lo porta a casa e magari lo porta alla Portobello, tanto per dire, no, da quella paletta se lo vende 10 euro. Che allucinante, io ne vado nei bocconi di Naghi, che come ti si chiama? Che si spazzini, mi? Non lo so, via Milano c'erano i cassoletti, quelli all'angolo, tu immaginati un giorno ci ho trovato 100 CD, ci ho trovato un computer. Un sacco di roba ho trovato, ma bella, funzionante, i DVD, sai quanti ne avevo, due ce li ho ancora, le due le ho regalate.